The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino. È stata la più grande cacciatrice di fossili della storia, donna in una società ultramaschilista, di famiglia povera e priva di un'istruzione formale. Con le sue scoperte ha fornito elementi essenziali a svelare la vita nei cieli e soprattutto nei mari preistorici. Il suo nome è Mary Henning e questa è la sua storia. Siamo Sound of Science, le idee della scienza con le parole della musica, e allora cominciamo così. 1, 2, 3, 4. Do you know Mary Annie? But on the southern shore, her father Richard was a cabin in America, and Richard died early and left her Annie's poor. But lucky Mary Annie found an itch dyer's heir. By circa 80-20, she ran a fossil store. She put her bones together for the collector. Science wants a province of men of noble birth, but I take Mary Annie over the staff white shirt. Ancient life that sleeps as fossils. She was walking the cliffs on her own by the sea. She was wondering if there were shapes underneath. There were men with a cage, but it's not what it do. She could read every line on the ground like a book. She assembled the bones of the best and some men, and she sold them in town for a couple of pence. And she sold all the men, all the bones to connect. Though the first time we scored, they would grow to respect. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Maurizio Melis al microfono, naturalmente come sempre con me c'è Giulia ciao a tutti. Torino, eccola qua, un benvenuto speciale soprattutto al nostro ospite Telmo Pievani, che a dire il vero ormai è una delle voci effettive di Radio 24, filosofo della scienza, professore all'Università di Padova, dove ti hanno fatto una cattedra apposta, o sbaglio? Sì, ecco, sì, sull'evoluzione. E quindi insomma qui siamo a livelli assolutamente altissimi. Giulia, che cosa abbiamo appena ascoltato? Abbiamo ascoltato un brano degli Artichoke, che hanno scritto questa canzone dal titolo Mary Henning. Si tratta di un brano che raccontava poi la biografia estrema, tutta dettagliata di Mary Henning, ed è stato abbastanza difficile trovare qualcosa su Mary Henning, quindi quando abbiamo trovato questo album che si intitola proprio 26 Scientists, quindi proprio racconta la vita di 26 scienziati della storia, personaggi molto importanti, e non abbiamo potuto che inserirla. Hai detto bene, abbiamo fatto fatica, in realtà è un personaggio abbastanza sconosciuto questa Mary Henning, e allora proviamo a conoscerla, vi racconto un po' di biografia. Mary Henning nasce nel 1799 a Lyme Regis, che è una piccola città costiera del sud dell'Inghilterra, affacciata sulla Manica, nel Dorset per la precisione, e fa notizia in realtà per la prima volta a soli 15 mesi, quando un fulmine, abbattendosi su un albero nel corso di una manifestazione, uccide 3 donne che vi si erano rifugiate sotto, naturalmente per proteggersi dalla pioggia, e una di queste teneva in mano proprio Mary. Mary viene portata di corsa, apparentemente però priva di vita, dai familiari, che la mettono in una vasca di acqua calda, la massaggiano, insomma dopo una mezz'oretta questa bimba si riprende. Sembra l'inizio di una favola, ma c'è Patricia Pearce, che è autrice di Jurassic Mary, con una delle pochissime biografie che si trovano su questo personaggio e per il resto invece incredibile, che appunto ci ricorda che se questo può sembrare l'inizio di una favola, la vita di Mary Henning non ha avuto molto di favoloso. Mary Henning apparteneva alla lower class, quindi la classe sociale popolare, era donna, non aveva un'istruzione formale, non era sposata, apparteneva a una minoranza religiosa e addirittura, per così dire, a una minoranza linguistica, perché abitava in questa contea, diciamo, dell'Inghilterra, in un paesino che si trovava tra l'altro tagliato fuori dalle principali vie di comunicazione, i cui abitanti avevano un fortissimo accento che gli creava seri problemi a comunicare con gli altri. Eppure questa donna riuscì a guadagnarsi da vivere ritrovando, dissotterrando e rivendendo fossili ai visitatori casuali con il suo negozio di souvenir, ma anche a importanti collezionisti e musei d'Inghilterra e di tutta Europa, e a guadagnarsi l'ammirazione di tanti scienziati nel periodo d'oro. Ne parleremo dopo, Telmo, delle scienze della Terra, anche se appunto, come vedremo, questa ammirazione non si tradurrà in un riconoscimento scientifico. Allora, Telmo Pievani, partiamo da qui, aiutaci proprio a inquadrare il periodo storico dal punto di vista scientifico. Che cosa si sapeva di fossili all'inizio dell'Ottocento? Mary Henning è una figura fantastica, perché tu hai elencato tutti i motivi di marginalità in cui lei si è trovata, E tu pensa che poi in realtà dopo 20-25 anni questa donna è sulla bocca di metà degli scienziati d'Europa e poi in realtà mai realmente riconosciuta, quasi mai citata nelle sedi ufficiali della scienza molto maschile di quegli anni. Ed è una donna libera che è capitata in un'epoca cruciale di passaggio, perché l'epoca in cui venivamo dalla seconda metà del Settecento, in cui i primi grandi naturalisti scozzesi soprattutto, quindi non tanto lontani dove abitava Mary Anning, scoprono le prime avvisaglie del tempo profondo, cioè ci si accorge che la Terra è un sistema antichissimo. Poi ne parliamo con più precisione, insomma non si aveva idea della durata della Terra e quindi anche parlare di evoluzione, insomma tutto doveva essere rapportato alla scala dei tempi disponibili. Quindi un momento da un lato di grande confusione ma di grande anche fermento. Esatto, e di contraddizione, perché girava diciamo la verità ufficiale in cui sostanzialmente se tu guardi i testi nessuno poi veramente credeva più, cioè che la Terra avesse 4.000 e poco più anni. C'era un religioso che aveva calcolato anche esatto, il giorno preciso, l'ora forse. Il 24 di ottobre, esatto. Ma non ci credeva più nessuno davvero, perché ormai c'erano moltissime evidenze, ripeto, già da diversi decenni, del fatto che erano esistiti dei grandi animali, spesso giganteschi, che ora non c'erano più, quindi l'idea di estinzione. L'idea che questi si erano trasformati nel corso del tempo, già l'avevano detto dei francesi, Buffon e altri. E soprattutto che la Terra era molto antica e che la geologia stava, come dire, arrivando sulla, come dire, sulla cresta dell'onda, era la grande disciplina dell'epoca. Ecco, ricordiamo però che Darwin, che arriverà poco tempo dopo, diceva orgogliosamente: io sono un geologo e voglio essere considerato un geologo. Ecco, ma quando trovavano uno di questi animali pietrificati, infilati fra due strati di roccia, lo tiravano fuori, che cosa pensavano che fossero? Beh, allora, perché parlavano di draghi volanti, parlavano di tutto, ma insomma prima di capire bene cosa fossero ce n'è voluto un po'. Diciamo le strategie erano o quelle di considerarle delle stranezze, perché ricordiamoci che i fossili al tempo di Mary Anning erano considerati le curiosità, si mettevano nei gabinetti delle meraviglie che avevano per esempio gli aristocratici inglesi e poi finiranno, cioè ci tappezzavano il bagno, ho capito bene, sì, e poi le regalavano anche ai grandi musei, come capitò appunto al British Museum, dove ancora adesso ci sono alcuni dei fossili più belli scoperti da Mary Anning. Oppure si cercava di ricondurli a tutti i costi a degli animali esistenti ancora oggi, i denti di squalo, no? Questa idea che tutto fosse riconducibile comunque ad animali qualcosa viventi. Di esistente, non era neanche chiaro, forse in quel momento cominciava a diventarlo, che fossero animali estinti in esatto. molti casi, no? Quello che cominciò a rompere un po' la tradizione fu Cuvier in Francia, che è anche nello stesso periodo di Mary Anning, che invece l'interpretò in modo diverso, disse no, la Terra vive durante il corso della sua storia dei momenti in cui ci sono certe flore, certe faune che poi vengono spazzate via da grandi catastrofi. E poi nuove creazioni producono nuove le piante e nuovi animali. Le teorie catastrofiste, giusto? Esatto. Questo è un altro modo per concepire l'estinzione degli animali. Darwin era ancora di là da venire, naturalmente. E ora torniamo un attimo alla biografia di Mary Anning. Abbiamo detto che nasce in una casa, insomma in una famiglia di condizioni molto modeste. Il padre Richard fa il falegname, anzi il cabinet maker, come dicono gli artichoke. E soprattutto però nei fine settimana si dilettava in giro a raccogliere fossili di cui le scogliere su cui abitano sono molto ricche, e questi fossili appunto lui li vende ai turisti come delle semplici curiosità. Si porta dietro il fratello di Mary Anning e la stessa Mary Anning, che tra l'altro ha un fisico diciamo adatto a questo tipo di vita abbastanza rocambolesca. C'è Friedrich Ludwig Leichhardt, famoso esploratore tedesco, che descrive così l'incontro con Mary Anning quando aveva 38 anni a quel punto. Abbiamo avuto il piacere di fare la conoscenza con la principessa della paleontologia, Miss Anning. È una forte ed energetica zitella, abbronzata e dall'aspetto mascolino, che ogni mattina e dopo ogni mareggiata cammina e si arrampica fra le formazioni geologiche dell'Ayas per vedere se nuovi fossili sono stati portati alla luce dalla caduta di rocce o dall'azione delle onde. E qui cominciamo ad avere la percezione che si trattava anche di un lavoro piuttosto pericoloso, perché lei in realtà il massimo diciamo della raccolta avveniva dopo le mareggiate, quando pezzi di scogliera si staccavano d'inverno sempre d'inverno. E infatti il papà è fortunato tante volte, ma insomma nel 1809 ha un incidente, poi si ammala di tubercolosi nel 1810, quando Mary Anning ha 11 anni e muore. E qualche mese dopo questo evento, a quanto pare, la piccola Mary sta trasportando una monite trovata sulla spiaggia verso casa, quando la ferma una signora signora che passa di lì, colpita dalla bellezza del fossile, le offre di acquistarlo. E questa bambina, appena rimasta orfana di padre, torna orgogliosissima dalla mamma, gli fa vedere questi 4 soldini guadagnati, e sembra che sia così. C'è sempre un evento scatenante, diciamo che nasce la grande cacciatrice di fossili, Mary Anning. E qui, Telmo, che cosa scopre Mary Anning? Ma allora, guarda, Mary Anning si è trovata nel posto giusto, perché è nata in un villaggio che sta sui cosiddetti Blue Layers, che sono una formazione geologica fantastica, perché sono strati di calcare alternati a scisti, cioè a strati di argilla, e praticamente sono come una torta a più livelli che ti dà una lettura geologica di un periodo particolarmente interessante, che è il Giurassico. Quindi siamo nel periodo dei grandi rettili, e lì hai proprio una fotografia di questi grandi bestioni che abitavano in quel periodo. Un filmato, periodo. Dicevamo addirittura. Esatto, esattamente. Strato dopo strato. All'inizio trovano ammoniti, che erano già note, pesci fossili molto interessanti, però un po' la svolta arriva quando trova un ittiosauro. Tra l'altro lo trova, il primo lo trova il fratello. Esatto. Che tira fuori il cranio, se non sbaglio, e poi lei, per tutto l'anno successivo, dissotterra il resto del corpo. 5 metri di animale. E questo è già un ritrovamento importante. Mary Anning aveva forse 15 anni, no, 12 anni addirittura. Ma anche capire che quello era un pezzo di un animale più grande non era una cosa banale a quel tempo. Vuol dire avere un grande occhio, vuol dire avere buone capacità di lettura anatomica, perché poi era un autodidatta. E poi parliamo anche di questa sua, di queste sue capacità. Restiamo un attimo sul tema delle scoperte. L'ittiosauro, che assomiglia, diciamo, a un coccodrillo con la coda da pesce, adesso so che sto dicendo una bestialità, sì, un evoluzionista, ma insomma, a vedersi. Un grande rettile marino, l'ittiosauro, che Stephen Jay Gould definiva il più grande anticonformista dell'evoluzione, perché è un rettile che ha seguito tutta l'evoluzione dell'uscita dall'acqua nel Devoniano e così via, e poi ha deciso di tornare in acqua. Un po' come i delfini, quindi? Esatto, okay. Infatti ha avuto molte convergenze evolutive con i cetacei, che invece sono mammiferi che hanno fatto lo stesso percorso, e quindi un animale interessantissimo. Poi lei tira fuori i plesiosauri, meravigliosi, giganteschi, anche questi, dei giganti dei mari, degli oceani del periodo, grandi rettili marini, quindi tecnicamente non sono dinosauri, anche se sono cugini ovviamente dei dinosauri, e ne studia diversi, un paio. Anche in questo caso poi lei li passa, li vende di solito a ricchi, in questo caso il duca di Buckingham, i quali poi li passano a grandi studiosi dell'epoca. C'è questo Conybeare, che se non sbaglio è quello, esatto, che descrive per primo il plesiosauro, ed è proprio quello di Mary Anning. Anche l'ittiosauro, per cui passa alla storia per averlo, esatto, descritto, è quello di Mary Anning, esatto, perché diciamo era un po' il boss della zona. Diciamo che altri diedero le interpretazioni scientifiche. Però molto lascia supporre che lei comunque suggerisse anche queste interpretazioni, ne siamo sicuri, con i coproliti, per esempio. Che sono? Che cosa sono? È un'altra, un'altra delle sue scoperte. Secondo me, tra l'altro, è forse per certi versi la più significativa dal punto di vista, cioè quella è paleontologia. Che cos'è un coprolite? Allora, i coprolite sono delle feci fossili, sostanzialmente. Lei però fa una scoperta eccezionale, perché si accorge che ci sono questi piccoli cumuli nella parte addominale proprio degli ittiosauri, e comincia a chiedersi cosa sono questi blocchi, queste pietre, e capisce, ha l'intuizione, il fatto che sta osservando praticamente il tratto digestivo finale degli ittiosauri. Allora ha un'altra intuizione, li rompe e scopre che dentro ci sono le ossicine di pesci, le scaglie, e addirittura, anche qui ha un occhio pazzesco, ci trova dentro delle ossicine di piccoli ittiosauri, e quindi capisce che gli ittiosauri erano cannibali, perché si mangiavano tra di loro. Probabilmente i grandi individui mangiavano i cuccioli. Ecco, perché secondo me qui c'è veramente tutta la capacità di questa donna interpretativa, perché un conto, sai, è vedere lì, ok, c'è un oggetto strano, posso in qualche modo limitarmi a raccoglierlo, ma qui c'è, insomma, non c'erano arrivati i grandi esperti dell'epoca. E infatti poi ci arriverà Buckland, che definirà i coproliti, ci scriverà grande sopra degli articoli. Grande amico di Anning. Però Buckland, bontà sua, soltanto mi pare in un paio di occasioni cita Mary Anning. E poi ho una citazione di Buckland che fa accapponare la pelle, poi la leggiamo. Altro animale fantastico è il drago che scopre Mary Anning. Naturalmente non è un drago, che cos'è? Il rettile volante, pterosauro. Ne trova uno tra l'altro particolarmente affascinante, con questo crapone enorme, queste ali molto ampie. più di 2 metri, insomma trova anche un grande rettile volante, e quindi praticamente mettendo insieme un po' tutti questi animali trovi, hai un'intera fauna, cioè hai un intero contesto, hai una fotografia di quello che succedeva decine di milioni di anni fa. Ecco, sta di fatto che la maggior parte dei fossili scoperti da Mary Anning non sono realisticamente ancora oggi attribuiti a lei. Questo perché all'epoca non si usava a registrare chi aveva dissotterrato il fossile, quindi in realtà non sappiamo bene che cosa abbia scoperto Mary oltre a queste grandi scoperte di cui è rimasta qualche traccia. E ora Giulia, a proposito di fossili, i fossili tornano molto spesso in senso metaforico nelle canzoni, un po' meno, diciamo così, dal punto di vista, come dire, lineano, non so, di classificazione. Esatto. Però abbiamo trovato anche un pezzo così. Sì, abbiamo trovato un pezzo dal titolo Platypus, che è proprio ornitorinco. È un brano dei Mr. Bungle, una band californiana, e in questo brano si parla proprio di come è avvenuta la scoperta dell'ornitorinco. Un'evoluzione per alcuni versi ancora misteriosa, lo descrivono come un po' un rettile, un po' un mammifero. È un brano... Insomma, li ha colpiti questo, che è uno degli animali più strani del mondo, sì. Insomma, no? Perché è un mammifero estremamente primordiale, quindi ha ancora dei tratti rettiliani. E allora, il pezzo è a dir poco sperimentale, anche lui quanto l'ornitorinco, che diciamo così è un bel esperimento. E allora ascoltiamo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento. The Sound of Science. Il suono della scienza. Eccoci di nuovo in studio, Maurizio Melis al microfono, come sempre in compagnia di Giulia Torino. Stiamo raccontando la storia di Mary Anning, la più grande cacciatrice di fossili, con l'aiuto del nostro ospite Telmo Pievani. Giulia, era l'inconfondibile Björk. Björk, sì, abbiamo ascoltato Mutual Core di Björk, un brano del 2011, tratto dal suo album Biofilia, in cui i testi e le musiche traggono ispirazione da fenomeni naturali e scoperte scientifiche. Il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato è una metafora delle relazioni umane paragonate proprio al modello della tettonica delle placche, quindi i suoi movimenti di avvicinamento e allontanamento come i rapporti umani. Bellissimo il video di questa di questo brano, con delle specie di esseri geologici animati. Consiglio a tutti di vederlo. Ecco, la canzone di Björk, se non si conosce, diciamo, questo aspetto metaforico, sembra in realtà una lezione di tettonica delle placche, e oggi conosciamo molto bene, insomma, il funzionamento, come le masse varie continentali spostandosi hanno formato oceani e quant'altro. Ma all'epoca della Anning che cosa si sapeva? Beh, si era capito che la superficie della Terra è un sistema in movimento, questo sì, e si cominciavano a sviluppare le prime teorie per interpretarlo, cioè per capire come i processi di sedimentazione, di erosione, di sollevamento, il vulcanismo, come tutti questi fenomeni potessero spiegare le trasformazioni del pianeta Terra. e come quello che noi vediamo oggi, moltiplicato per tantissimo tempo, potesse spiegare le trasformazioni della Terra stessa, lo sviluppo delle montagne, le cordigliere, i vulcani, le isole, gli arcipelaghi, insomma tutta la complessità della superficie terrestre. Dentro questo scacchiere, questo scenario in movimento, ci sono le piante e gli animali, quindi era tutto una, come dire, una riflessione sul cambiamento. Ecco, e il fattore tempo era uno dei fattori cruciali di tutta questa riflessione. Perché Mary Anne e tanti altri capiscono che il tempo, la cronologia biblica è totalmente insufficiente, non solo, ma i primi sfondamenti all'indietro parlavano di alcune decine, centinaia di migliaia di anni, ma già verso la fine del Settecento si capisce che per render conto di tutte queste grandi trasformazioni della terra e poi degli animali e delle piante erano necessari decine di milioni di anni, e quindi nasce tutta la grande disputa sull'età della terra, mescolata a un'altra che Mary Anne ha in qualche modo sfiorato, cioè se questo tempo profondo era da considerarsi come un unico grande movimento lento e graduale uniforme, oppure, come pensavano i francesi, un processo catastrofista, cioè lunghi periodi di stabilità interrotti anche da grandi catastrofi. Anche perché questa teoria delle catastrofi offriva una specie, se ho capito bene, di via di mezzo tra il tempo lunghissimo, che poi sappiamo essere quello di miliardi di anni che conosciamo oggi, e quelle decine di migliaia di anni che invece non potevano spiegare assolutamente nulla. Esatto. Ecco, bisogna anche ricordare che a quell'epoca si faceva fatica a giustificare una durata molto lunga della Terra. Per esempio c'era il magma che veniva fuori da sottoterra, c'era il sole incandescente, non c'erano meccanismi per spiegare una combustione che durasse miliardi di anni. Quindi anche alcune stime assolutamente sbagliate che per esempio Lord Kelvin fece all'epoca della durata della Terra e del Sole, stimate in qualche decina di milioni di anni, era il meglio che si potesse fare. Era veramente difficile capire con quei dati a disposizione. Assolutamente, e il caso di Kelvin è fantastico, perché tu vedi proprio il conflitto tra il fisico che fece un'analisi assolutamente rigorosa all'epoca, siamo già a seconda metà dell'Ottocento, angustiando Darwin, perché lui giustamente calcolò da fisico il periodo di raffreddamento del pianeta, valutandolo come oggi, quanto tempo ci è voluto? Pensavano che quel calore fosse il calore residuo della, esatto, formazione del pianeta, per cui si stesse raffreddando come una palla arroventata. Esatto. Ma non conoscevano la radioattività e quindi non sapevano che c'era una sorgente interna di calore. Darwin fu tra l'altro molto corretto, perché ebbe uno scontro con Kelvin. Darwin era un gradualista convinto che la Terra avesse almeno alcune centinaia di milioni di anni, e disse al più grande scienziato dell'epoca, della fisica dell'epoca, disse: guarda, se la tua misura è giusta, cioè così corta, la mia teoria dell'evoluzione è sbagliata, quindi o ho ragione io o hai ragione tu. Darwin muore nel 1882 con questo cruccio, e poi verrà scoperta la radioattività e si scoprirà che aveva ragione Charles Darwin. Ah, i primi del Novecento succede, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio, esatto, del Novecento succede questo. Veniamo a un'altra scienza nata in quel periodo, che è proprio la paleontologia, e qui c'è un contributo forse anche, non decisivo, ma senz'altro diretto, di Mary Anning. Diciamo, noi diciamo che una scienza nasce quando tu sei capace di sviluppare un'analisi sistematica dei fenomeni che tu studi, di trovarne delle leggi, delle regolarità. A quel tempo la geologia aveva raggiunto, stava raggiungendo questo statuto, ma proprio tra gli anni 20 e gli anni 30 dell'Ottocento nasce anche la paleontologia, cioè lo studio sistematico dei fossili e dei resti del passato, per ricostruire la storia di quello che era accaduto. E per avere questo dovevi avere dei materiali, e la Anning era considerata la principale, come fornitrice di questi materiali, e venditrice anche di questi materiali. Tu Capiovani, geologia, paleontologia, ma non solo, perché nel 1857, e questo tu ce lo insegni, Charles Darwin, dopo averla tenuta nel cassetto forse 10 anni, una cosa di questo 20 genere, quasi. Addirittura 20, ecco, dopo averla tenuta così tanto nel cassetto, pubblica L'origine delle specie. Quindi veniamo a Mary Anning e Charles Darwin, un incontro che non è mai avvenuto, ma che sarebbe stato possibile perché i due sono perfettamente contemporanei. Sapevano l'uno dell'esistenza dell'altra? Beh, Darwin sicuramente sapeva dell'esistenza di Anning, probabilmente non il contrario. Facciamo due conti: quando Anning fa quel famoso viaggio e va a trovare il suo amico geologo a Londra, avviene nel 29, Darwin ha 20 anni, è un giovanissimo studente, non è ancora partito per il suo famosissimo viaggio intorno al mondo col Beagle. È uno studente abbastanza, come dire, mediocre, il padre non è molto contento di lui, tant'è che non lo vorrà neanche mandare poi in viaggio, quindi non lo conosceva nessuno sostanzialmente, era stato a Edimburgo a studiare medicina e adesso stava a Cambridge. Però, insomma, lui sapeva chi fosse Mary Anning. Questo lo sappiamo per certo, perché ecco, uno dei maestri di Darwin, che era Adam Sedgwick era un grande seguace della Annie, andava a trovarla, si era fatto dare un sacco di fossili e poi è stato maestro di Darwin e ha formato Darwin come geologo, quindi c'è un link personale diretto tra i due. Ecco, e tutti sappiamo dell'enorme impatto culturale che ebbe la pubblicazione dell'Origine delle Specie da parte di Darwin, impatto che ancora oggi è ben lungi, diciamo così, dall'essere completamente assorbito. Questo si vede nella musica. Intanto è un concetto che ha ispirato e ha fatto riflettere molti artisti, questo dell'evoluzione della selezione delle specie. In questo caso non abbiamo fatto fatica come altre volte, Giulia, a trovare dei brani che vi facessero riferimento. Ci sono anche brani anti-evoluzionisti, cioè veramente di tutto. E però per introdurre questo tema lasciamo appunto la parola alla musica. Quello di cui parliamo non è certo un brano anti-evoluzionista, di che cosa si tratta? Allora parliamo del brano che dà il titolo Evoluzione, del Banco del Mutuo Soccorso, un gruppo prog del nato nel 1969, tuttora in attività, e nel 72 ha composto il suo primo concept album dal titolo proprio Darwin. Hanno scelto quindi il tema dell'evoluzione della vita sulla Terra e questo brano che noi stiamo per presentare dura in realtà 14 minuti, quindi parecchio. Noi abbiamo scelto un piccolo stralcio proprio per farti sentire qualcosa e racconta proprio tutta l'evoluzione della Terra, quindi dall'origine della Terra dall'origine fino della alla terra, comparsa a tutti gli animali che strisciano esatto. fuori dalle acque eccetera eccetera sì, e noi sì. vi citiamo giusto la parte iniziale. La parte iniziale, sì. E allora andiamo. Prova a pensare un po' diverso, niente da grandi dei fu fabbricato, ma il creato si è creato da sé. Cellule, fibre, energia e calore. Telmo Pievani, che tipo di influenza hanno le scoperte della Annie e di tutti appunto i suoi contemporanei sul dibattito intorno all'evoluzione? Beh, dà un contributo fondamentale a un fenomeno molto semplice, la realtà dell'estinzione, cioè il fatto che le specie animali non sono eterne, quindi hanno un inizio, hanno uno sviluppo, una trasformazione nel corso del tempo e poi a un certo punto muoiono. Anche un grande geologo italiano, che era Brocchi, aveva detto che le specie sono come individui, nascono, si sviluppano e muoiono. Darwin, tra l'altro, fu molto influenzato anche da queste idee quando partì, no, per il suo viaggio. Quindi le specie si estinguono e ci sono stati in passato degli ambienti, dei paleoambienti, li chiamiamo oggi, diversi da quelli di oggi, che hanno avuto delle influenze, hanno trasformato gli organismi in maniera differente, altre esigenze, altre dimensioni, altre catene ecologiche e alimentari che sono diverse da quelle di oggi. Quindi l'idea da un lato dell'estinzione e dall'altra quella implicita, a quel tempo non ancora detta, della evoluzione. E allora non vi estinguete, restate con noi, a tra poco. The Sound of Science, il suono della scienza. Ben ritrovati, siamo a Sound of Science e stiamo raccontando uno dei periodi storici più affascinanti per quanto riguarda lo sviluppo delle scienze naturali, la prima metà del 1800, seguendo il filo rosso rappresentato dalla vita di Mary Henning, la più grande cacciatrice di fossili della storia. Come sempre, per parlare di scienza, partiamo dalla musica. Ascoltate! Pievani, questa che ancora sentiamo sullo sfondo si intitola Due Evolution, è un pezzo dei Pearl Jam, il brano del 1998 ed è uno dei tanti brani in cui per un verso o per l'altro c'è un'idea di evoluzione come qualcosa di spietato, ma soprattutto come qualcosa che ha una direzione precisa. Due Evolution, ma posso citare Evolution dei Korn, Evolution di Susanna McCorkle, Line in the Sand dei Motorhead, un altro pezzo di Bad Religion che si chiama Part 4 di Index Fossil, che era l'opera complessiva, Jonathan Coulton. Insomma, tanti hanno questa idea, ma è così che stanno le cose. Beh, diciamo che è entrata così nell'immaginario collettivo. Pensa che Darwin, per esempio, non usa mai la parola Evolution, perché a quel tempo evolution già voleva dire qualcosa di direzionato, come lo sviluppo di un individuo che nasce e poi diventa una forma adulta. Quindi dice, l'evoluzione non è quella cosa lì, l'evoluzione, Darwin dice, è trasmutazione, metamorfosi, non ha una direzione, non è progresso. Però pensa come funziona l'immaginario, Darwin oggi è noto come l'uomo che ci ha dato la teoria dell'evoluzione. Perché quando noi abbiamo... il concetto e la parola esistevano già, lui trova il meccanismo che consente di spiegarla l'evoluzione, no? E ci sono due grandi fraintendimenti dietro che sono poi rimasti, che vedi anche in questa espressione dell'immaginario nostro. Una è che appunto l'evoluzione abbia una direzione o positiva o negativa, quindi che sia un progresso inarrestabile. Darwin, e stiamo parlando di un'epoca che è quella dell'Inghilterra vittoriana, dove il progresso era, lo trovavi tutti la i giorni, la parola d'ordine, diciamo, esatto, dell'epoca, sì. Le ferrovie, i canali, la rivoluzione industriale, progresso. Quindi l'evoluzione nasce in quel periodo lì e si è portata dietro questo stampo che rimane ancora oggi. Oggi abbiamo un'antropologia un po' più pessimista, spesso parliamo di evoluzione come involuzione, quindi andiamo verso un'epoca come in cui... se la bomba atomica fosse la naturale conseguenza. Questa è una cosa che si trova spesso nelle, esatto, canzoni, del essere passati attraverso le unghie, poi l'arco e le frecce, ma in realtà la bomba atomica non c'entra niente con l'evoluzione, esatto, no? Non è una marcia indietro dell'evoluzione, perché l'evoluzione non ha direzione, questo è molto importante, è un'esplorazione di possibilità, non è una locomotiva che va su un binario. Basta vedere, correggimi se sbaglio, che in certi periodi predomina il gigantismo, altre volte predominano animali più piccoli, a seconda appunto dell'ambiente. Non c'è una direzione solo a crescere o solo a essere più complessi. Esatto, no? Dipende dal contesto contingente. L'altro grande fraintendimento è questa idea che in questo pezzo dei Pearl Jam emerge sotto traccia, che l'evoluzione voglia dire sopravvivenza del più forte, una spietata lotta per la sopravvivenza, la giungla del mercato, della competizione. In realtà tu vai a prendere l'origine delle specie, fai un esercizio, cerca se lui usa una volta sopravvivenza del più forte, non c'è mai, non era affatto questa la sua idea. Sopravvive il più flessibile, il più fortunato, il più cooperativo, anche il più competitivo, il più aggressivo, cioè di tutto, no? Succede nell'evoluzione. Ma non c'è una sola ricetta che funziona, la ricetta che funziona dipende molto da tanti altri fattori, chiamiamoli così, ambientali. Un altro binomio che ho l'impressione venga spesso preso in considerazione in modo frainteso è il binomio evoluzione-caso. Mm-hmm. Ora, su questa roba si potrebbe probabilmente scrivere un trattato, però ecco, che cosa c'è di casuale, che cosa c'è di non casuale nell'evoluzione? Allora, l'evoluzione si ciba di casualità, perché le mutazioni che rendono ciascun individuo diverso da tutti gli altri sono casuali, nel senso che emergono spontaneamente di generazione in generazione. Poi ci sono fenomeni casuali, alcune grandi estinzioni del passato. I dinosauri non si sono estinti perché se la sono cercata, si sono estinti perché un insieme di fattori contingenti molto sfortunati per loro e fortunati per noi, peraltro, hanno giocato a loro sfavore. Quindi vedi che c'è un forte elemento di caso e di contingenza. Però è sbagliato dire che l'evoluzione è puro caso, perché poi cosa fa l'evoluzione? Si nutre del caso, ma poi la selezione naturale e altri meccanismi filtrano. È casuale, esatto, nel senso. Infatti succedono queste cose che a volte da direzioni diverse si arriva a delle soluzioni simili, pur essendo casuale il motore, diciamo, delle mutazioni che c'è sotto. Esattamente, no? Quindi in questo caso tu vedi un processo che è molto più deterministico. Quindi alla fine il risultato è uno strano... ricetta che mescola caso e contingenza. Darwin diceva l'evoluzione è una dialettica tra la legge e il caso, e di situazione in situazione prevale un po' l'una e un po' l'altra. Dunque Telmo, nel repertorio musicale, diciamo nella produzione musicale, ci sono tantissimi brani che trattano il tema dell'evoluzione rispetto al tema religioso. Ci sono naturalmente brani antireligiosi che usano come principale argomento l'evoluzione di Darwin. Ce n'è uno, Devils Put the Dinosaur Here, degli Alice in Chains, di una violenza inaudita, ma ci sono brani anti-evoluzionisti, ci sono brani anti-evoluzionisti. Dalla corrispondenza sembra che la Henning fosse una persona molto religiosa, su questo non ci sono molti dubbi, e contemporaneamente sembra accettare senza grandi difficoltà il fatto che intere, appunto, famiglie, come ci spiegavi tu prima, contenenti centinaia di specie, fossero completamente scomparse, si fossero estinte in un lontano passato. In una lettera ad un'amica scrive che, in base alla sua esperienza, qui cito testualmente, le connessioni e le analogie tra le creature del mondo passato e presente, eccetto per quanto concerne la taglia, che forse non era neanche un'osservazione giusta, ma insomma, sono molto più forti di quanto generalmente si suppone. Più in generale, dalla corrispondenza della Henning si vede come lei padroneggiasse intanto perfettamente il dibattito scientifico in corso, e come probabilmente fosse su posizioni, non è ufficiale, cosiddette teistiche, simili a quelle del reverendo Hutton, e cioè in pratica l'evoluzione era parte del piano divino. L'unico momento, diciamo, di dubbio evidentemente religioso della Henning nel 1830, quando per qualche ragione, ma magari anche di tipo politico, non si sa, abbandona la sua denominazione religiosa di origine, quella dei congregazionisti, e abbraccia la chiesa anglicana, quella diciamo ufficiale. Darwin sembra avere un rapporto molto meno sereno con il proprio lavoro. Darwin sì, ha avuto un travaglio interiore che è durato un po' per tutta la sua biografia. Anche lui ha avuto un'epoca, una fase teistica, quindi l'idea di inglobare il processo evolutivo dentro una visione in cui non puoi escludere che l'inizio sia stato tutto pensato da una divinità. Poi in realtà Darwin ha un trauma personale, perché perde una figlia amatissima, Annie, nel 1851, e lui stesso dice che quello è stato il momento in cui ha smesso in realtà di credere che potesse esistere qualsiasi tipo di divinità o di progettista intelligente. E per il resto della sua biografia assume una posizione agnostica, parola che venne coniata proprio in quel periodo, cioè Darwin diceva: sulla base delle mie conoscenze razionali non posso arrivare a una conclusione, né positiva né negativa, ed è questa la sua posizione finale poi su questo tema. In realtà la cosa importante da ricordare è che Darwin non attese così a lungo, 20 anni, per pubblicare le sue idee, in realtà per preoccupazioni squisitamente religiose. Darwin veniva da una famiglia laica, liberale, molto aperta. Le sue vere preoccupazioni erano quelle di uscire troppo presto e di non avere l'appoggio della comunità scientifica dell'epoca, che era molto chiusa, e molti di quelli che ebbero a che fare proprio con Mary Henning, come Richard Owen o Buckland, erano molto tradizionalisti, e se Darwin fosse uscito troppo presto lo avrebbero massacrato. Darwin, credo che nell'Origine delle Specie, ma poi anche nell'Origine dell'Uomo, scrive almeno il quintuplo di delle prove che servono per dimostrare la sua teoria. Lui continua negli anni ad aggiungere nuovi casi e cerca di demolire ogni possibile obiezione, sostanzialmente. Però è veramente, all'inizio soprattutto della sua vita, sembra che lui un travaglio, correggimi se sbaglio, ma insomma lo viva. È vero che a un certo punto dice che pubblicare L'Origine delle Specie è un po' come confessare un omicidio? Eh sì, perché lui torna dal viaggio, scrive su degli appunti privati la sua teoria, e questo è fantastico, perché lui già si vede che nel 38-39 l'aveva già tutta scritta. Decide di metterla in un cassetto e la pubblica 20 anni dopo, e guarda che sono i 20 anni centrali della carriera di uno scienziato, cioè dai 30 ai 50 anni. Lui li passa in incognita come evoluzionista, non lo dice a nessuno tranne qualche accenno alla moglie e qualche amico. E allora succede una cosa molto teatrale, perché lui non ce la fa, no, a tenersi, e nelle lettere private vedi che, soprattutto quando comincia a fidarsi di qualche suo amico, comincia a buttargliela lì e dice: ma guarda che secondo me, sai cos'è, le specie evolvono, c'è la selezione naturale. E allora nel 1844 succede una cosa molto interessante: uno di questi amici finalmente dice: senti, ma cosa continui a ripetermi queste cose, parliamone, no, pubblica, raccontami. E allora a quel punto lui si ferma e dice: no, guarda, pubblicare queste idee sarebbe per me come confessare un delitto, e usa proprio la parola murder, cioè un assassinio. E allora nella lettera dopo questo amico dice: ma scusami, cos'è tutta questa tragedia, sto dramma, chi è l'ucciso, chi è la vittima? E dice: eh beh, se ho capito bene vuol dire che d'ora in poi non ci sarà più bisogno di richiamarsi a una provvidenza, a un architetto celeste, per spiegare l'evoluzione delle specie, e questo è un delitto. Anche perché lui, quando era partito per il suo viaggio, non si aspettava di trovare quello che ha trovato, anzi probabilmente era più ascrivibile a quella corrente di pensiero che pensava che in qualche modo la natura fosse frutto, un meccanismo perfetto, frutto di un qualche tipo di intervento divino. Poi con grande onestà intellettuale si rende conto che le cose non stanno così. Sta di fatto che lui sa che sta lanciando una bomba, che sta togliendo la terra sotto i piedi a un sacco di gente, e ha anche paura che le sue idee possano essere strumentalizzate, e cosa che puntualmente infatti accadrà. E c'è un brano che secondo me rappresenta veramente proprio quello che potrebbero essere i dubbi, le paure dello stesso Darwin. Giulia? Sì, abbiamo scelto un brano dei Low Anthem, che sono una band statunitense. Hanno, come gli artisti che abbiamo già nominato fino adesso, anche loro hanno a cuore questa tematica ambientalista, questa tematica sociale, e hanno composto quest'album dal titolo Oh My God, Charlie Darwin, proprio rivolgendosi anche a Charles Darwin in modo un po' affettuoso, in modo amichevole, proprio nominandolo Charlie, come se fossero vicini a Darwin in queste sue preoccupazioni, come abbiamo appunto detto fino adesso. E ci sono proprio delle frasi, no, che lo dicono molto bene, come quando appunto dice chi presterà orecchio alla teoria di Darwin? I signori della guerra probabilmente, insomma, e queste cose purtroppo in qualche misura avvennero, ma noi qui siamo a Sound of Science e quindi ve li suoniamo i pezzi, allora... Tra pochi secondi ancora con Sound of Science. The Sound of Science, il suono della scienza. Bentornati in studio, siamo a Sound of Science, le idee della scienza con le parole della musica. Quello che avete appena ascoltato è Dance Like a Monkey dei New York Dolls, un pezzo molto divertente che prende in giro in modo sfacciato assolutamente i creazionisti. Allora Termo, io non posso fare a meno di sorridere tutte le volte che mi viene in mente quel museo che c'è in America in cui i suddetti creazionisti, contro ogni evidenza evidentemente, tentano di convincere i visitatori che i dinosauri ed esseri umani vivevano insieme non più di qualche migliaio di anni fa nel paradiso terrestre. Allora Telmo, partiamo da qui perché l'ultima parte della trasmissione è dedicata al pregiudizio, che sarà un elemento dominante della vita di Mary Henning, donna in un mondo super maschilista. Vi leggo un breve passaggio. Tutti concordano che se devono essere di qualche utilità scientifica, le donne non debbano poter assistere ai meeting scientifici, soprattutto a Oxford, dove si trasformerebbero da seri consessi nei quali gli uomini discutono di filosofia naturale in incontri dilettantistici. Era il 1831 e con queste parole, in qualità di presidente della British Association for Advancement of Science, William Buckland, che tu hai già nominato, grande amico della Henning, eminente scienziato considerato il padre della paleontologia e tra l'altro marito di una donna straordinariamente intelligente, ecco, questa è la motivazione che adduce per spiegare perché viene bocciata la richiesta di ammettere le donne alle lectures, cioè a quei momenti in cui appunto si dà lettura degli articoli scientifici e si discute. Insomma, scienza e pregiudizio. Non è che gli scienziati, Telmo, non abbiano pregiudizi, si direbbe. Beh, il caso di Buckland è perfetto. È incredibile, tra l'altro, no? Li unisce tutti e due questi. Questo, il pregiudizio antifemminile e quello creazionista, perché Buckland è stato uno dei grandi propagandisti dei cosiddetti Bridgewater Treaties, che erano questi trattati che interpretavano il mondo naturale come l'opera della provvidenza, no? Il grande argomento del disegno. Avevano un grandissimo successo, ce l'avevano tutti in casa in quel periodo. Quindi univa l'aspetto creazionista e questo maschilista. Fai conto che la Annie, nonostante tutti i suoi meriti, non fu mai ammessa alla Geological Society britannica, che è uno scandalo letto in chiave odierna. Ecco, brevissimamente, abbiamo parlato anche delle paure prima di Darwin, no? A proposito di pregiudizi, c'è tutto un periodo che sta, se non sbaglio, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, in cui le stesse teorie di Darwin vengono utilizzate, almeno provano ad utilizzarle, per giustificare lo schiavismo. Insomma, erano tutti inferiori tranne il maschio bianco, sostanzialmente, possibilmente anglosassone. Esatto. Non va così. Cos'è che provano a fare? Beh, provano a fare una grande strumentalizzazione, di cui tra l'altro si accorse lo stesso Darwin, perché Darwin non era ancora vivo quando cominciò a diffondersi l'idea del darwinismo sociale. E io ho scoperto di recente una lettera fantastica, perché un suo amico gli manda un giornale di Manchester dove c'è scritto: grazie alle scoperte di Darwin possiamo finalmente capire perché ha vinto Napoleone, o perché i grandi industriali prevalgono gli uni sugli altri. Darwin legge questa cosa e dice: ma quante sciocchezze dicono il mio nome. Quindi era molto ben consapevole. E infatti era uno dei tanti motivi per cui è stato attento a quello che scriveva, molto attento a quello che scriveva, no? Insomma, la teoria dell'evoluzione è usata per giustificare il fatto che il forte schiacciasse il debole. E allora torniamo alla Henning. Mary Henning non si sposa, non si è sposata mai. Non risulta che ci siano stati uomini che abbiano avuto un ruolo, diciamo, nella sua vita sentimentale, della quale d'altronde credo non si sappia nulla. In compenso furono molti gli uomini che ebbero un qualche debito di gratitudine nei confronti della Henning. Mary Henning, il suo negozio di souvenir, che era strapieno di fossili, infatti erano diventati col tempo la principale attrazione di Lyme Regis, l'unico motivo di visita da parte di studiosi e personaggi altolocali, i quali al loro arrivo immancabilmente chiedevano, creando anche una certa invidia all'epoca, chiedevano di lei, e lei li conduceva nei luoghi più ricchi di fossili anche con molta generosità. Ma soprattutto la Henning vende i suoi ritrovamenti più importanti a collezionisti e studiosi che poi passeranno alla storia per averli descritti per primi, e non esita diciamo così, a condividere tutte le sue conoscenze con questi che sono i più grandi naturalisti dell'epoca. Ne ha incontrati veramente tanti nel corso della sua vita, Telmo. Beh, direi che tutta la scienza geologica e paleontologica del periodo passa di lì. Abitava lì, peraltro, no? Come esatto. In Francia erano, la matematica stava in Francia, le scienze naturali stavano in Inghilterra in quell'epoca. Vanno a trovarla Charles Lyell, il padre della geologia, quello che scrive i principi di geologia negli anni 30, che diventa poi il mentore e il maestro di Darwin, altro legame diretto tra la Henning e Darwin. Ci vanno Adam Sedgwick, un altro maestro di Darwin, ci vanno Murchison, poi Henri de la Beche, Buckland l'abbiamo già citato, Richard Owen userà tantissimo, il grande padre della paleontologia, dell'anatomia comparata inglese, grande nemico di Darwin. Quello che inventa la parola dinosauri, giusto? Che inventa la parola rettili terribili, dinosauri. E quindi passano tutti di lì. E il fatto molto triste, del quale peraltro la Henning si accorse immediatamente, c'è una lettera tristissima dove lei dice: il mondo mi ha usato in modo così scorretto, quindi era chiarissimo, perché prendevano le sue cose e poi, senza citarla, le interpretavano, le pubblicavano, ci facevano sopra delle carriere senza riconoscerne nulla. E questo si vede benissimo nell'ipocrisia un pochino tipica, diciamo, del mondo anglosassone dell'epoca, perché poi quando lei si ammala, a questo punto accorrono tutti per aiutarla, per ricordarla, poi appena è morta, però tutto postumo, diciamo, che è un po' sospetto. È proprio il contentino poco prima di morire. Poi ci arriviamo. Intanto, proprio per smontare questa tesi che lei fosse una con una vista da falco, cioè il lavoro che faceva la Henning era un lavoro difficile, non bastava, ripeto, avere una buona vista. Che cosa bisogna sapere per fare quello che ha fatto lei? Abbiamo sentito nella prima canzone che lei prendeva le ossa fossili, poi usava il cemento e ricostituiva, no, su questa base di cemento l'animale. ha praticamente gettato le basi del metodo che poi è stato usato per tantissimo tempo e che poi in fondo artigianalmente si usa ancora oggi, anche se con materiali diversi. Quindi deve avere la capacità di cercare al momento giusto nel posto giusto nel suo caso. L'altro occhio è quello anatomico, cioè devi capire che quel pezzo lì ha un significato, cioè è disarticolato ma fa parte di un contesto più ampio. A quel punto devi sapere allargare lo sguardo, quindi scavare nella direzione giusta, e poi devi tirarlo fuori, preservarlo prima che venga portato via dagli agenti atmosferici, e poi dopo devi ricomporlo, insomma devi fare tutto il lavoro poi di preparazione, perché poi lei li doveva anche vendere, quindi doveva anche essere belli scenograficamente. Certo, addirittura William Daniel Conyber, che è uno scienziato diciamo abbastanza importante, passa alla storia per aver descritto per primo il plesiosauro scoperto da Lenning, e la prima volta che lo vede pensa che si tratti, non so se di un errore, se di un montaggio sbagliato, addirittura di un falso. Sì, perché ha questo collo lunghissimo, per cui è questo corpaccione molto robusto, quindi non pensano che si faccia parte poi dello stesso animale. Sembra un miscuglio di animali contemporanei, no? Per cui pensavano che fosse un accrocchio, invece aveva ragione la Henning. Tra l'altro è successo spesso in paleontologia che un animale strano viene confuso come un mix di animali diversi. E tra l'altro, episodio particolare, Cuvier, il grande nemico di tutti questi geologi e paleontologi inglesi, accuserà la Henning di frode sul plesiosauro, cioè dirà che la Henning ha messo insieme animali diversi, e però poi Cuvier dovrà qualche anno dopo, addirittura rarissimo caso, scusarsi e dire che invece no, la Henning aveva visto giusto, e quindi è riuscita a battere dal punto di vista della capacità di osservazione persino il grandissimo Georges Cuvier, il padre della paleontologia francese. Insomma, credo che non serva aggiungere altro per spiegare quali fossero le abilità di questa donna, che qualche pacca sulla spalla, diciamo così, la riceve, no? Ci sono spesso nella corrispondenza, si trovano per esempio a un certo punto Hawkins, che è uno dei massimi collezionisti di fossili dell'epoca, la descrive come la profetessa. Gideon Mantell, non l'abbiamo citato prima, ma è lo scopritore di 4 su 5 dinosauri conosciuti all'epoca della Henning, la definisce la leonessa della geologia. Tutti, diciamo, hanno grande apprezzamento, ma mai, dicevamo, un riconoscimento ufficiale. Nemmeno viene mai dato a uno degli animali da lei scoperti il suo nome. Ecco, parlavi di questa solidarietà che arriva un po' alla fine della vita della Henning, un po' l'ultimo decennio. I fossili vanno meno di moda, si vendono meno. Per Henning è dura anche dal punto di vista economico, non arrivano grandi scoperte, e a quel punto alcuni dei suoi colleghi si ricordano di lei, del suo contributo, e viene così creato un piccolo fondo, sostanzialmente una colletta con la quale appunto costituiscono un piccolo fondo. Se ne occupa la British Association for Advancement of Science, 200 sterline, se ne aggiungono poi altre 300 del governo, che vanno a costituire una piccola pensione. Questa accompagna Mary Henning fino alla fine della sua vita. Il 9 marzo 1847, a nemmeno 50 anni, muore Mary Henning per un cancro al seno. Allora, Telmo, siamo in chiusura. Questo mondo dei dinosauri, quelli che scopre Mary Henning, come ci hai ricordato, non sono tecnicamente dei dinosauri, ma insomma appartengono a quello stesso immaginario. Ecco, che ruolo ha avuto questo immaginario, che oggi è potentissimo, ancora oggi, film, animazioni, no? I miei bambini non dormono senza un dinosauro in mano. Beh, Henning ha avuto un ruolo fondamentale che poi dopo tanto tempo, troppo tempo, le è stato riconosciuto. La Royal Society nel 2010 l'ha eletta tra le 10 donne più influenti nella storia della scienza britannica, insieme con Rosalind Franklin e pochissime altre, perché nella motivazione giustamente si dice è stata una precorritrice ed è stata colei che ci ha fatto vedere concretamente il tempo profondo, perché tu lo puoi anche concepire, lo puoi anche vedere in grande nella geologia, ma poi quando hai davanti a te un animale articolato e ti immagini come si muoveva, lo vedi in carne e ossa, beh, quella è l'evoluzione, no? La vedi direttamente. E ecco, e ho l'impressione anche che la stessa teoria dell'evoluzione sarebbe più difficile da mandar giù, abbiamo parlato di tutte le difficoltà di accettarla, se non ci fosse questo messaggio potentissimo mandato da questi animali dal passato. E infatti vedi che anche i creazionisti devono immaginarsi un parco divertimenti in cui i dinosauri ci sono, ma vivono insieme con agli uomini. E qui noi dedichiamo sempre l'ultima canzone al nostro ospite, vero Giulia? Sì, noi che non è però un dinosauro il nostro ospite. Però... No, perché infatti il titolo del brano che stiamo per cantare è Dinosaur, ed è King Crimson, un celebre gruppo prog londinese con oltre mitico 40 per anni i musicisti di soprattutto carriera, di attività. E in questo brano il cantante Adrian Belew si stupisce che l'uomo non si sia ancora estinto. Parla dell'uomo in termini anche un po' dispregiativi, e infatti si definisce un dinosauro, sa che prima o poi si estinguerà per tutte queste sue attività, insomma, poco positive. Cioè, qualcosa stiamo facendo per cercare di autoestinguerci, sì, in effetti. Sì. to lies, but it's all my life. Then you say it, what an easy prey am I stepping? Standing in the sun, idiot urban, something like a monument. I'm a dinosaur. Somebody's digging my bones. I'm a dinosaur. Somebody's digging my bones. Ignorance, that's all it's been. Something excellent. Fall away by nifty pride. Doesn't take a scientist to see how any clever predator could have a piece of me. Standing in the sun, idiot servant, something like a monument. I'm a dinosaur. Somebody's digging my bones. I'm a dinosaur. E allora ci fermiamo qui, grazie a Telmo Pievani per essere rimasto con noi. A voi, alla prossima. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, a settimana prossima. Ciao!